cum tu te fai grazioso. E se hai voglia di sposo, un più buono di me, certo non trovi. Io sposo non ho stolto, in vano spiri, in vano credo. È un'altra meraviglia.